Allora, abbiamo detto sopra che l'io governo come funzione dell'anima ha appunto il compito di incarnare le qualità dell'essere e praticarle in primo luogo nella funzione di governo di se stesso. Quindi, quello che ci siamo detti anche stamattina è che l'io governo ha compito di conoscere la personalità, di conoscere le subpersonalità, di conoscere le parti tristi, delicate, depresse, offese, quelle parti che sono state esposte a un mondo ostile quando erano piccole, come direbbe Reich, e quindi poi hanno mantenuto questa ferita aperta. Allora è chiaro che un io governo, come cocchiere, deve saper guidare i cavalli, ma deve saper guidare anche le parti tristi, depresse o comunque in strutture di difesa bloccate che stanno a livello della psiche. Ora, il grande contributo della psicologia umanistica è anche quello di dire: ma queste qualità umane, che noi appunto abbiamo detto, ecco, adesso faccio un'altra parentesi che qui non c'è, ma la amplio. Rogers aveva detto che le qualità essenziali, le condizioni dell'aiuto sono fondamentalmente empatia e stima incondizionata e genuinità. Poi altri autori dopo di lui le hanno ampliate, le hanno un po' cambiate e così via, ma tutto questo per dare un quadro sistematico di analisi di queste qualità, non solo nominarle, ma dire come funziona e sottoporre a test di verifica, perché ricordiamoci che Rogers è uno terapeuta che ha registrato i suoi interventi, ha visto quali producevano determinati risultati e no, e ha collegato questi risultati all'applicazione, alla presenza o no di determinate qualità. Quindi lui ha fatto una ricerca sperimentale su questo, nei limiti in cui si può fare in queste cose, e lo stesso Kharkov e altri dopo di lui. Dal nostro punto di vista queste ricerche servono a parlare col mondo scientifico della vecchia era, cioè col mondo che ritiene ancora il bisogno di quel tipo di controllo, della verifica, di così. Esiste un mondo a cui si sta aprendo la scienza, quella che c'è sempre stata, la scienza empatica, la scienza per risonanza, che funziona non attraverso la sperimentazione su oggetti esterni, ma funziona per risonanza proprio per esperienza personale, e quindi è un altro modo. Per esempio, cito la sperimentazione che fa colui, tutto il mondo della meditazione. Tutto il mondo della meditazione, nonostante hanno fatto degli esperimenti sulla meditazione, hanno fatto le esperienze. Queste esperienze fanno cambiare il livello di coscienza. Nei livelli più elevati di coscienza, certe cose risultano assolutamente chiare e visibili, perché si spostano i centri di osservazione sulle cose pertinenti e davvero essenziali, anziché andare a osservare le cose inessenziali. Ricordiamoci che la visione poi si concretizza nell'osservazione, no? Una visione ampia ti consente, questo è importantissimo, di osservare ciò che è essenziale, e grazie all'osservazione di ciò che è essenziale certe cose risultano chiarissime. Una visione non sufficientemente ampia ti fa concentrare su cose inessenziali, marginali o addirittura fuorvianti. E questo l'aveva già capito benissimo Aristotele quando parlava di nous patheticos e nous poieticos. Nous patheticos nasce dalla dominazione dei sensi, cioè da ciò che è visibile in superficie attraverso gli occhi, le orecchie e così via. Ma ci vuole un occhio più profondo, un occhio della contemplazione non guidato da quella che nella mistica chiameremo la volontà personale, quindi la volontà di appropriazione, la volontà di dominio. Ecco. Quindi grazie alla purificazione della volontà e alla visione e quindi alla concentrazione sul bene, sempre sui livelli sempre più ampi e inclusivi, arriviamo in un occhio della contemplazione che è aperto alla verità profonda, quindi accogliere nell'osservazione ciò che è essenziale. Quindi a seconda del livello di consapevolezza noi osserviamo il mondo in modi diversi, ci costruiamo mappe diverse perché i nostri focus attenzionali sono diversi, ci concentriamo magari su un occhio che guarda in quella maniera, su un altro così, su una piccola dettagli, come per esempio fa il paranoide, ma perdiamo di vista cose molto più importanti, molto più grandi. Quindi lo spostamento dell'attenzione a dati rilevanti, a dati sempre più significativi, fino ai dati essenziali, è lo spostamento della conoscenza tra livelli più bassi, come dice Platone, e livelli più alti. Ricordiamoci che nella visione di Platone ci sono almeno 5 livelli di conoscenza: eidola, cioè le immagini, poi c'è il mondo dei nomi, nel nominiamo, poi c'è il mondo dei concetti, poi c'è il mondo del logos, quindi del ragionamento, ma Poi dopo, al quinto livello, poi ancora più in alto, c'è il mondo dell'Eidon. E l'Eidon è il cogliere l'essenza. Ma il cogliere l'essenza si fa in attività contemplativa. L'attività contemplativa avviene nella persona che ha creato sufficiente congruenza al proprio interno, cioè creato un campo di coerenza. Grazie a questo campo di coerenza, alla risonanza che esso genera, la persona in stato contemplazione può cogliere ciò che è essenziale. Per che cosa? Per il bene e per la giustizia. Questa è la parentesi.